Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che venerdì come sempre avremo anche la nostra poco invidiabile classifica, avremo un approfondimento lungo sul doppio vertice Tallinn ieri e G20 oggi, che ha anche un, anzi ha soprattutto dei risvolti di carattere economico, visto che oggi ad Amburgo si è parlato anche di protezionismo, di non protezionismo, una richiesta che arriva da Putin, ma non solo, la stretta di mano tra Putin e Trump, l'incontro di questa sera tra i due, il discorso di Trump a Varsavia con un valore non solo simbolico ma anche simbolico, e invece ieri le porte chiuse in faccia, lo dico con massimo rispetto al ministro Minniti, che non ho problemi a dirlo, secondo me interpreta bene il suo ruolo, però le porte in faccia che abbiamo ricevuto dal vertice informale europeo quanto a migranti, questo al di là degli scontri e delle tensioni di ordine pubblico che si stanno registrando ad Amburgo. I temi, ripeto, sono soprattutto di politica estera, anche perché siamo reduci, ne abbiamo parlato a lungo, dell'accordo molto importante tra Bruxelles, tra Unione Europea e Tokyo e Giappone, anche perché quello crea un asse, se lo guardiamo non solo verso... ieri ce ne siamo occupati per quello che riguardava l'Italia soprattutto, e i vantaggi sull'export italiano nei settori moda, ma in primo luogo agroalimentare. E però se guardiamo la fotografia nel suo complesso non si può non notare che l'accordo Giappone-Unione Europea crea un accordo di libero scambio tra i principali produttori di auto al mondo assieme agli Stati Uniti, quindi un asse tra produttori che vogliono dire sì il gruppo Fiat, ma anche e soprattutto i marchi tedeschi e francesi, e il Giappone. Per cui è un accordo che per alcuni versi può anche spaventare gli Stati Uniti, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, dello scenario economico geoeconomico che si sta delineando. Molti fanno notare che dopo una partenza così più che scoppiettante, anche un po' spiazzante di Trump sta dimostrando un realismo molto forte, non ha mantenuto, diciamo per fortuna secondo molti, quell'approccio iperprotezionistico e di scontro, e lo dimostrano anche le dichiarazioni relative a Putin, oltre che le dichiarazioni delle settimane scorse relative alla Cina e altri. E devo dire che oggi Trump ha avuto anche dichiarazioni di plauso nei confronti della Merkel, ha detto ottimo l'incontro con Angela Merkel, dopo la Polonia ha avuto anche un ottimo incontro con la cancelliera Merkel e poi con il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente coreano Moon. Quindi mi sembra di poter dire che quanto ai rapporti diplomatici e all'attività diplomatica, Trump non stia creando una barriera attorno agli Stati Uniti. Dialogo e incontro. Vedremo poi cosa uscirà dall'incontro di questa sera con Putin. Per quello che riguarda invece gli altri temi della giornata economico-finanziaria, parto dalla borsa, -0,45% Milano, -0,40% Parigi, -0,11% Francoforte, -0,1 Londra e +0,25 il Dow Jones. I temi oggi riguardano Brembo in positivo, +1,70 di nuovo in crescita, ST Microelectronics +1,20, Hughes Saint Porté +0,60. Il fronte opposto invece riguarda il titolo Mediaset -3,25%. In realtà non sono piaciuti i dati sulla raccolta pubblicitaria. Tenaris -3%. E qui c'è il tema del petrolio. Tenaris viene collegato al petrolio perché ha tra le grandi attività anche la fornitura delle condotte petrolifere. Tenaris -3%, Saipem -2,30% ed Eni -1%. Che cosa è successo sul petrolio? Continua a esserci una profonda debolezza del prezzo del petrolio, tant'è che oggi ha perso un altro 3%, 3,5%, scendendo anche sotto i $44 al barile, a $43,90 per quello che riguarda il WTI. a dimostrazione ulteriore che il tentativo di blocco alla produzione e quindi il tentativo dell'OPEC di riportare i prezzi almeno a $50 al barile sta per ora fallendo. Ha avuto una piccola qualche settimana di fiammata a 53-54, però sta, come dicono in gergo, ritracciando a $43-45 al barile. Per quello che riguarda, dicevo, il resto del listino, oltre ai titoli petroliferi, Finecobank meno 2,30, Ferragamo meno 1,80, Azimut meno 1,40%. Il numero per i vostri sms, come sempre, è WhatsApp 349-238-6666. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e il programma è trasmesso in diretta anche sul sito della radio e su Facebook. Andiamo con le notizie in breve. Dati contrastanti agli Stati Uniti perché si sono creati più posti di lavoro a giugno rispetto alle attese, 220.000 posti di lavoro, ma il tasso di disoccupazione è salito al 4,4%, era il 4,3%, avercelo noi un tasso così. È vero che poi bisogna guardare la qualità di questi posti di lavoro, però faccio notare che il 4,3% era il livello più basso quanto a disoccupazione negli Stati Uniti da 16 anni a questa parte. E invece, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Microsoft ha confermato una nuova ondata di licenziamenti, taglierà migliaia di posti di lavoro nel settore vendite. E sostanzialmente i tagli arriveranno per la maggior parte all'estero, 75% fuori dagli Stati Uniti. Le lettere di licenziamento sono state inviate ieri, diciamo inferiore al 10% della forza lavoro, dai 3 ai 4 mila licenziamenti la stima non è ancora definitiva. Non voglio parlare adesso di Amburgo, del vertice di Amburgo, del G20. Faccio notare che invece, se parliamo di Europa, oggi c'è un dato a sorpresa che arriva dalla Gran Bretagna, dove la produzione industriale ha segnato a maggio un calo inatteso, meno 0,2% rispetto all'anno prima, ed è un ulteriore rallentamento della crescita nel secondo trimestre per la Gran Bretagna. Le stime indicavano un rialzo della produzione industriale tra lo 0,4% e lo 0,2%, male in particolar modo il settore delle costruzioni, meno 1,2%, e il rapporto di Halifax rivela una crescita dei prezzi delle abitazioni a giugno del 2,6%, il livello più basso in 4 anni. Vola invece la produzione industriale in Germania, più 5%, e anche in Francia, più 3,2%, sempre nel mese di maggio il dato, entrambi i dati confermano comunque tutti i segnali arrivati come segnali anticipatori. Andiamo all'Italia invece, dove le vendite al dettaglio a maggio sono risultate in aumento dell'1% rispetto all'anno prima. È l'aumento tendenziale maggio, cioè tendenziale vuol dire di anno su anno, più alto da oltre un anno, dal marzo del 2016. I prezzi sono fermi per quello che riguarda invece il mondo dell'abitazione, perché era un po' di trimestri che osservavamo leggerissimi rialzi nei prezzi dell'abitazione. Per la prima volta dal terzo che ricevamo segnali di una leggera tensione sui prezzi, ecco, per la prima volta dal terzo trimestre 2011 si è fermato il calo tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti. Non stiamo parlando di un aumento dei prezzi in senso stretto, ma del fatto che non vi è stato un ulteriore calo. La lieve flessione tendenziale è dovuta esclusivamente ai prezzi delle abitazioni nuove, ma insomma il dato di fondo è che trimestre su trimestre non vi è stato un calo, era stato 0,1% nel trimestre precedente, un calo dei prezzi delle abitazioni. Il mondo agricolo, ma anche parleremo dell'allarme siccità, perché lo dico perché oggi si è tenuta l'assemblea annuale di Confagricoltura intitolata quest'anno Coltiviamo l'Italia, l'Auditorium Parco della Musica. È intervenuto chiaramente il neopresidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti, a 100 giorni dal suo insediamento. Ha detto: guardate con occhi nuovi il nostro settore, e ha ricordato anche i numeri. Io da tempo dico che una volta c'era la battuta braccio rubata all'agricoltura, con quello che è successo nel 2008-2009, poi anche con alcuni geni delle banche in questi ultimi anni in Italia, uno dovrebbe dire braccio rubate alla finanza in alcuni casi. Comunque sentiamo Giansanti sui numeri e il contributo dell'agricoltura al PIL. Un sistema agricolo che, pensate, negli ultimi anni ha visto scendere il numero delle imprese del 30%, crescono però le forme societarie, il che significa sta cambiando anche il modo di fare agricoltura. Cresce la natura di impresa, finisce quella visione dell'agricoltura, del nonno e il nipote, e il nipote che era lì che doveva decidere se andava a studiare o se rimaneva agricoltore. Sta aumentando l'impresa, queste imprese aumentano, in pochi anni sono aumentate di oltre del 20% e sono tra l'altro quelle imprese che da sole già oggi rappresentano oltre il 56% del prodotto interno lordo del settore dell'agricoltura. Pensate come l'impresa in agricoltura sta crescendo in pochi anni. Una dimensione che ovviamente deve portare Confagricoltura a considerare che oggi 145.000 imprenditori associati a Confagricoltura, certo non saranno numeri paragonabili a quelli degli altri, ma rappresentiamo quell'impresa che produce e che coltiva l'Italia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Mi scrive un ascoltatore: buon pomeriggio, ho il turno di notte ma sacrifico un'ora di sonno ben volentieri per la classifica. Allora, la ringrazio. Dopodiché si può ascoltare anche in podcast, lo dico perché se è un turno di notte capisco benissimo il problema di rinunciare a un'ora di sonno. E allora però, anche per venire incontro all'ascoltatore, andiamo subito con la classifica, poi come sempre il caso virtuoso, classifica della settimana. La classifica della settimana. Oh, allora, delle volte la classifica andrebbe riaggiornata subito, però in questo caso c'è solo una notizia, non abbiamo ancora notizie di reato, come si dice in questi casi. Perché lo dico? Perché abbiamo fatto fare un servizio anche ai nostri GR 24, insomma è successa una cosa un po' strana, non lo metto in classifica, però è appena la notizia di poco fa. L'attuale neopresidente della regione Val d'Aosta, si chiama Pierluigi Marquis, non so come si pronunci bene, e si è insediato il 10 marzo, ha fatto fare dei lavori di ristrutturazione all'ufficio riservato al presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, al secondo piano del palazzo regionale. E sapete che è successo? Mentre facevano i lavori di manutenzione della scrivania, alzando il piano della scrivania, anche in parte che eventualmente è una scrivania col piano rialzabile, sotto il piano hanno trovato 25.000 euro in contanti. Adesso bisogna capire chi li ha lasciati lì, anche a parte che dimenticassi 25.000 euro in contanti, così, ma perché tieni 25.000 euro in contanti sotto la scrivania, sotto il piano della scrivania? Ma non funzionano i bancomat d'Aosta? Avevi il problema di liquidità immediata? Bah, però non c'è reato e quindi ve la cito e basta. Invece andiamo subito al quinto posto. Allora, la settimana scorsa non abbiamo fatto la classifica, ma insomma c'era la vicenda molto segnalata dei 50 dipendenti del comune di Piacenza indagati con le accuse di falso e truffa. Timbravano il cartellino in ufficio per farsi i fatti propri, chi andava in palestra, chi andava a fare la spesa, chi andava prima a fare la spesa e poi in palestra, prima in palestra e poi a fare la spesa. Insomma, 50 indagati. Lo dico perché questo fa il paio con un'altra notizia appena uscita. C'è un comune in provincia di Caserta che è uno dei comuni più poveri in Italia, pensate che ha la disoccupazione, non quella giovanile, la disoccupazione normale, al 27%, ha un reddito medio annuo che uno può anche accettare che vi sia il nero, ma comunque un reddito, può anche immaginare non accettare che vi sia il nero, ma è un reddito bassissimo, 6.000 euro annui il reddito medio, 8.600 abitanti, il comune si chiama Frignano, non Frignano, Frignano, perché lo cito? perché ha un altro record, oltre ad avere uno dei redditi medi più bassi in assoluto in Italia. Ha il record in questo paese di il record assoluto dei dipendenti comunali indagati per assenteismo in proporzione al numero di dipendenti. E infatti si becca il nostro quinto posto, 35 su 70, a metà esatta. Indagati, e non sappiamo gli altri, immagino che gli altri siano tutti onesti, però dipendenti che andavano a timbrare il cartellino in ciabatte, poi tornavano a casa, beh giustamente, insomma, a questo punto se non devi stare al lavoro, ma che ti metti pure a vestirti? A parte che ho beccato qualcuno in ciabatte anche, vabbè, dobbiamo stare. Non voglio fare delle azioni qui dentro, ma però insomma, almeno non è assenteista, mettiamola così. Oppure andavano, timbravano il cartellino e andavano a giocare all'otto, giustamente, perché a questo punto la fortuna ti bacia. Oppure c'era chi timbrava il cartellino per 10 colleghi rimasti a casa, e lì bisogna stare attento anche, attenti al gomito della lavandaia a forza di timbrare. Praticamente c'è stato infatti un nuovo provvedimento cautelare della Procura della Repubblica di Napoli Nord verso 5 dipendenti del comune di Frignano, indagati per truffa aggravata e falsa attestazione della presenza al lavoro. I 5 hanno utilizzato in maniera fraudolenta il sistema di rilevazione automatica delle presenze. Le indagini si sono svolte tra novembre e dicembre. Il problema è che con questi 5 più gli altri 29 già indagati arriviamo a 35, quindi c'è un nuovo record nel paese. Sì, lo so, qualcuno mi fa notare che 70 dipendenti per 8.600 abitanti non sono nemmeno pochi, però mi sembra che il problema non sia quanti in primo luogo quanti sono i dipendenti per abitanti, ma quanti lavorano di sei dipendenti tra gli abitanti, che poi anche venne 7, ma se lavorano in 3 il problema si pone. Andiamo al quarto posto, e qui parliamo dei vitalizi, qui non c'entrano gli enti locali, parliamo dei vitalizi della Camera. So già che questo creerà malox a più di una persona, ma insomma, non c'è condanna che tenga. Se tu hai il vitalizio lo avrai. È una delle poche certezze in questo paese. Allora, il vitalizio non si tocca per nessuno. Massimo Abbatangelo, qualcuno che ha la memoria, insomma, che alla mia età se lo ricorderà, deputato missino per 4 legislature, accusato per la strage del Rapido 904 il 23 dicembre dell'84, viene assolto in appello, ergastolo in primo grado, ma viene comunque condannato a 6 anni per detenzione di esplosivo. Quindi assolto sulla strage, ma 6 anni per detenzione di esplosivo, che per carità, adesso non è che tutti noi a casa ci abbiamo un po' di dinamite o di, come si chiamava quel famosissimo, ahimè, esplosivo utilizzato anche per la strage di Bologna, di cui non ricordo il nome, Syntex, una cosa del genere, Syntex, adesso vado a controllare. Comunque, la sentenza del 94, fino al 2015 la Camera paga il vitalizio all'ex deputato, sono 4.600 euro netti al mese. Da 2 anni lo stop, gli ha bloccato il vitalizio. Abbatangelo però ha presentato istanza di riabilitazione, che è stata accolta dall'ufficio di presidenza della Camera, e adesso l'assegno ritorna. È interessante perché sia Abbatangelo, deputato missino, insomma, faceva parte, diciamo, di un periodo, ahimè, molto tragico, molto duro del nostro paese, però era in contestazione con lo Stato, questo possiamo dirlo, come atteggiamento, così come anche Capanna, che non ha mai avuto procedimenti del genere, in contestazione con lo Stato, cioè l'idea era di sovvertire quel tipo di Stato, però quando poi lo Stato a distanza di decenni ti eroga il vitalizio, lì lo Stato va di nuovo bene. Uno può avere cambiato anche idea ideologicamente, per carità. Sì, l'esplosivo è il Syntex, giusto, quello utilizzato, ahimè, per la strage di Bologna. Comunque, ma non c'entra niente con Abbatangelo, non c'entra nulla con Abbatangelo, sto solo dicendo che da 2 anni non gli veniva pagato il vitalizio. Lui ha presentato istanze di riabilitazione, che è stata accolta dall'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, e quindi non solo riavrà il vitalizio, ma gli verranno versati anche gli arretrati 17 mensilità di assegni relativi al periodo di interruzione, che appunto, valendo 4.600 euro, voglio dire, non è poca cosa per il periodo di interruzione. La stessa sorte, si fa per dire, la stessa, diciamo, vicenda riguarda anche Giuseppe Astone, deputato della DC, condannato a 5 anni e 10 mesi per tangenti nel messinese. Anche in questo caso viene accolta dalla Camera dei Deputati la domanda di riabilitazione e noi ricominceremo a versare all'ex deputato condannato a 5 anni e 10 mesi per tangenti 5.200 euro netti al mese. Via libera della Camera anche per il vitalizio di Massimo De Carolis, ex deputato della Democrazia Cristiana di Forza Italia, condannato a 2 anni e 8 mesi per bancarotta, tornerà a ricevere 3.000 euro netti al mese. E passiamo adesso alle auto blu. Come vedete non c'è solo sono gli enti pubblici solo in classifica. Le auto blu. Allora, qui bisogna fare chiarezza perché è un attimo diventare demagogici o imprecisi. Il tema delle auto blu va affrontato in questo modo. Allora, c'è stata un'oggettiva riduzione della flotta di vetture, questo soprattutto negli ultimi due governi, quindi governo Renzi e governo Gentiloni. Le vetture sono passate, le auto blu, tutte, quelle per lo Stato, quelle per i ministeri, quelle per gli enti statali, ma anche comuni, province, regioni, tutte le auto blu sono passate dal 2014, quando erano 58.000, a 21.000 nel 2016. Quindi c'è stata un'importante anche riduzione, per non essere sempre così, delle auto blu, meno della metà. Adesso, andando all'ultimo censimento, si è scoperto che sono riaumentate. In realtà il governo ha fatto sapere che siccome hanno aderito al censimento molti più enti locali, prima banalmente non erano neanche censite queste auto blu, quindi sono risalite da 21.000 a, se non ricordo male, da 21.000 a 29.682. Ripeto, in buona parte questo da ricondurre a rilevazioni più accurate e complete, quindi un censimento fatto meglio. Prima manco sapevamo quant'erano queste auto blu. E questo per dare atto al governo che comunque, non dire sempre che tutto è uno schifo, la tendenza c'è stata e la riduzione di quasi 30.000 auto blu c'è stata in 2 anni. La dimostrazione che si poteva vivere senza, aggiungo io. Qual è il problema? Il problema è che se vai a vedere come sono distribuite queste 29.000 auto blu, ti accorgi che non è tanto Roma o il governo o lo Stato o gli enti pubblici il problema sono i comuni. I comuni e alcuni comuni, ci mancherebbe, alcuni capoluoghi di regione. Io adesso invito, non so quanti ascoltatori abbiamo in certi comuni, spero tantissimi, invito tutti coloro che ascoltano a fare una protesta formale in questi comuni. Adesso vi do la lista. Il record assoluto. Chiunque abiti a Latina o in provincia di Latina, si segni il nome della località, Rocca Secca dei Volsci. Comune di 1.000 abitanti, a censimento 10 auto con autista. Praticamente, se le distribuiamo bene, lo voglio suggerire al sindaco, 1.000 abitanti compresi bambini, vabbè, quelli lasciamoli un attimo fuori, 10 auto con autista, sono 100 abitanti ogni auto con autista. Se vi distribuite bene il compito, a parte che fate fuori tutti i taxi della zona, ma soprattutto uno può anche usare l'auto blu per andare a portare il figlio all'asilo. Iniziamo a usare come pulmini, metti i figli all'auto blu, car sharing è niente, cioè Rocca Secca dei Volsci è oltre il car sharing, è oltre tutto in realtà. 10 auto blu con autista per 1.000 abitanti, io non vorrei capire, cioè, comunque utilizzateli, almeno utilizzateli. Devi fare la spesa con i tuoi figli, prendi l'auto blu con l'autista. Devi portare i bambini a scuola, prendi l'auto blu con l'autista, visto che il comune lo paghi. Ma non si batte male neanche il comune di Roseto degli Abruzzi, 25.000 abitanti in provincia di Teramo, che ha 50 auto blu. 50 auto blu, pure qua non siamo messi male, eh? Stesso numero di auto blu a Monopoli, provincia di Bari, e Bagheria, provincia di Palermo. Andiamo ai capoluoghi regionali. Tra i capoluoghi svetta Oristano. Adesso io dico una cosa, ma la Sardegna, che è una terra che io adoro come tutte le altre regioni italiane, ma che conosco anche particolarmente bene, che è una terra in una difficoltà economica totale perché è stata sottoposta a un processo di deindustrializzazione, poi possiamo parlarne per giorni, cerca con il turismo e con l'agricoltura intelligente di valore di risollevarsi. Poi ci hanno raccontato i grandi tour operator che lavorano in Sardegna, che però la regione non li ha neanche mai convocati una volta per un tavolo per capire di cosa hanno bisogno. Magari hanno bisogno dei charter all'aeroporto di Cagliari, dalle destinazioni più pregiate che hanno in mano, Russia, paesi arabi, Est Europa, e niente. Invece non c'è nessun raccordo con chi, con i tour operator che lavorano sul territorio, le grandi catene alberghiere che lavorano sul territorio. Ma vabbè. Ma com'è possibile che una regione, diciamo, con così alto tasso di difficoltà economica, il capoluogo di provincia oristano ha a disposizione 20 auto blu con autista, praticamente ha una densità di 63 auto ogni 100.000 abitanti, perché questo è il rapporto che facciamo, 20 auto blu con autista, è il numero uno tra i capoluoghi, a Oristano. Segue Sassari, 106 auto di servizio, 106 auto di servizio. Segue Trapani, 32 auto di servizio, sono 46 ogni 100.000 abitanti. Brindisi, 11 auto, densità 12 auto ogni 100.000 abitanti. Messina, 24 auto, 10 ogni 100.000 abitanti. Cosenza, 6 auto con autista. Tra i grandi centri la flotta più numerosa è quella di Torino, 294 vetture, 33 vetture ogni 100.000 abitanti. Poi Roma, 146 auto. Firenze, 111 auto, e con una densità di 29 auto ogni 100.000 abitanti. Questo lo dico perché è inutile prendersela con Roma, in questo caso, con i ministeri, con gli enti locali. Prendetevela con i singoli comuni che abbiamo citato e chiedete semplicemente spiegazione: come mai tutte ste auto blu con autista? Devo andare sul traffico, sul meteo, e poi andiamo al secondo e al primo posto. Qualcuno mi dice: non ci credo, 10 auto con autista in un comune di 1.000 abitanti. Sì, è così, ho detto che con i compresi i bambini li possono usare come pulmini, come scuolabus, almeno a Rocca Secca dei Volsci. Fai prima a prenderti un'auto blu con autista che a trovare un taxi. Meteo. Focus Economia. Di nuovo in diretta, andiamo al secondo posto dopo le auto blu. E qui ci avviciniamo appunto alla parte alta della classifica. Torna dopo qualche settimana di assenza a trovarci, si fa per così dire, l'AMA, l'azienda dei rifiuti di Roma. Eravamo molto indecisi se mettere questa al primo posto della classifica per il valore economico, però in realtà nella vita c'è il valore economico, ma c'è anche il valore simbolico e il danno che fai, oltre che economico, anche il danno morale. Quindi il primo posto sarebbe beccato un'altra vicenda. Allora, l'AMA che cosa è riuscita a fare? Nonostante abbia conti cronicamente in rosso, poi non voglio entrare sul tema della pulizia di Roma o della non pulizia di Roma, 1.400.000.000 di euro nel 2014, quindi la giunta Raggi 2014, l'azienda compra per 1.500.000 di euro, 1.500.000 di euro, 12 spazzatrici elettriche. A che servono le spazzatrici? Lo dice il nome, a spazzare. Devono pulire il centro storico, ma non vengono mai utilizzate. Qui ci sono tre livelli, e non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, tre livelli di danno erariale, cioè la devi studiare veramente in maniera scientifica, come diceva Gassman. Allora, il primo livello, che spendi 1.500.000 di euro per 12 spazzatrici elettriche che non utilizzi. Perché? Scusatemi. Per due semplici motivi. Uno, mancano le colonnine per la ricarica. È un dettaglio, sono elettriche, però vanno ricaricate. Poi gli avete elettriche e pensavano fossero elettriche. Non è che si autoriproduce l'energia, capisci? Non è un sottomarino nucleare americano, è una spazzatrice elettrica, ci vogliono le colonnine, va bene. Ma in aggiunta i mezzi si erano rilevati inadeguati a pulire le vie del centro, traduco, erano troppo ingombranti su alcune vie, ma lì ci voleva un genio a capire che le vie del centro storico di Roma non sono quelle di Los Angeles, i boulevard di Los Angeles, lo so, però ci avevano provato. Secondo punto, dove la Corte dei Conti dice altro danno erariale: siccome non le stai utilizzando, le metti in un parcheggio. Quale parcheggio scegli? Al terminal Gianicolo. Ma mica è tuo, eh no, perché sennò come fai a perdere 1.400.000.000, accumulare 1.400.000.000 di euro di debito? No, l'AMA prende in affitto, pagandolo 56.000 euro al mese. Ma voglio dire, ma se tu chiedevi ai romani, sono 12 spazzatrici, a 56.000 euro al mese, ma ognuno se ne portava a casa una. Ma i condomini facevano la gara per portarsi, portati a casa la tua spazzatrice. Dividi 12 spazzatrici per 56.000 euro, hai fatto più di 4.000, hai fatto 4.500, 4.800 euro al mese. E insomma, condividiamo la spazzatrice, magari i bambini ci possono anche giocare. Se è spenta, uno invece che l'hobby del modellismo, dei trenini, si mette a montare e smontare la spazzatrice. Niente, 56.000 euro al mese, ossia 675.000 euro di affitto per tenere le spazzatrici parcheggiate al termine, al Gianicolo. 675.000 euro all'anno. C'è un ulteriore fronte, perché ho 3 danni. Adesso 5 spazzatrici le hanno messe in funzione, perché il terzo fronte del danno, che segnala sempre la Corte dei Conti, è che i mezzi parcheggiati a 56.000 euro al mese, tu ti immagini che siano tirati a lucido, pulitissimi, no, sono stati lasciati in uno stato di quasi abbandono che ha fatto deteriorare la condizione dei mezzi, generando ulteriori costi per l'azienda, e questo è il terzo danno erariale. Guarda che se ci si mette un genio e cerca di fare peggio su 12 spazzatrici non ci riesce, eh? Andiamo, no, qualcuno mi ce l'avevate già detta, no, è un'altra vicenda questa qui, si è aggiunto un sono i 3 danni erariali. Ho capito a cosa si riferiscono alcuni ascoltatori, ma è un'altra vicenda, che con la classifica comunque ne ha così tante che poi uno si può confondersi all'ascolto. Andiamo al primo posto. And the winner is... Oh, i vincitori sono tutti quegli insegnanti che utilizzano la legge 104, una legge fondamentale, l'abbiamo difesa in tutte le forme possibili, è una legge del 92 che dà la precedenza ai docenti, nel caso della scuola chiaramente, che dà la precedenza ai docenti che dichiarano un disabile a carico, ed è ispirato a un principio sacrosanto, e cioè dice: se tu hai un disabile a carico, che sia tuo figlio o un genitore, un parente stretto, hai un diritto di precedenza nei trasferimenti. E perché si immagina che tu abbia necessità di fornire assistenza al coniuge, al figlio, ai genitori disabili. Il problema, nell'inchiesta documentata e si chiamò a suo tempo la carica dei 104, con un po' di ironia, ma che sta ultimamente avendo sviluppi, il problema sono le dichiarazioni false. Ora, perché l'abbiamo messa al primo posto? Perché va bene, cioè non va male, ed è già un reato abusare, dichiarare il falso e sfruttare quindi le possibilità che la legge ti dà, ma quando lo fai nei confronti di chi veramente ha un disabile a carico, sei doppiamente bastardo, cioè non c'è solo un reato, sei veramente una carogna. Perché lo dico? Perché al di là dell'inchiesta della carica dei 104, elaborando i dati ministeriali, l'associazione Tutto Scuola si è accorta che il fenomeno è molto più esteso. Praticamente il 72 per... Cosa ha fatto l'associazione Tutto Scuola? Ha visto quante volte nei trasferimenti interprovinciali viene utilizzata la 104 come motivo in tutta la penisola. Io non voglio dire nulla su sud, centro e nord, sono i dati, ognuno faccia il commento che vuole. Allora, il 72% dei trasferimenti interprovinciali nelle scuole primarie siciliane avviene per via della 104, con punta dell'81% a Palermo, dell'83% a Trapani, del 100% ad Agrigento ed Enna. Cioè tutti i trasferimenti sono fatti sulla base del certificato da 104. A Vibo Valentia e Cosenza in Calabria siamo tra l'87 e il 97%. Dice: va bene, ma probabilmente questa è la media del paese, la maggior parte dei trasferimenti vengono fatti perché c'è un genitore, un figlio o un coniuge disabile. Mi spiegate come mai però nel nord-ovest, su 2.900 trasferimenti dello stesso tipo, solo 7 sono dovuti alla 104? Come mai nel nord-est sono solo 5, nel centro 48? Cioè le quote regionali, visto che citavo le percentuali, se sono del 90%, 70%, 80% tra Sicilia e Calabria, sono dello 0,7%, vuol dire che solo lo 0,7% dei trasferimenti avviene motivato dalla 104 in Veneto, l'1,2% in Lombardia. Poi si va alle regioni che citavo, siamo al 37% in Puglia, al 66% in Campania, al 73% in Sicilia, al 79% in Calabria. La beffa la racconta Ignazio Fonzo, uno dei magistrati più impegnati a smascherare gli imbroglioni, perché quando vieni scoperto, e l'ho spiegato anche il provveditore di Agrigento Raffaele Zarbo, non posso costringere a cosa, viene, cosa succede? Torni nella destinazione originaria. Ma giustamente Fonzo dice: ma non è che questa vada bene, perché il messaggio che dai a uno che ha falsificato una cosa così importante e così utile per chi purtroppo ha avuto la sfortuna di avere un disabile in casa, non ti può bastare dire: vabbè, torni, eri a, che ne so, Catania, torni a Catania invece che andare a Siracusa. Eh no, in un paese normale chi ha falsificato un documento del genere viene licenziato, anche se è un insegnante, non ha diritto a insegnare ai bambini, agli studenti, quando abusi, anzi falsifichi la presenza di un malato, di un disabile in casa pur di ottenere un trasferimento e sta più vicino alla famiglia. Non puoi solo rientrare, devi andare a casa, così poi ti avvicini finalmente. Adesso andiamo al caso virtuoso, la borsa meno 0,33%, l'abbiamo già commentata prima, Parigi meno 0,14%, Francoforte invariata, Londra più 0,20%, deboli i petroliferi oltre che Mediaset per i raccolti sulla pubblicità meno 3% Mediaset, Fineco meno 2,80%, Tenaris meno 2,60%, Ferragamo meno 2,13%, poi Saipem meno 1,80%, bene Brembo più 1,70%, ST Microelectronics più 1,20%. Fabio Todeschini, fondatore e responsabile di Blue Break, buonasera. Buonasera. Resti con noi, traffico. Focus Economia. Allora Fabio Todeschini, sì, hanno ragione gli ascoltatori che dicono sulla 104 bisogna indagare anche i medici che le firmano, sono d'accordo, ho dimenticato di dirlo. Comunque Todeschini, cosa fa la Blue Break? Allora, quanti anni ha lei? Chi vi ha aiutato? In tre simpatici minuti. Ok, allora Blue Break sviluppa sistemi di assistenza alla frenata per biciclette, ovvero quello che tutti chiamiamo ABS per le bici, per le macchine noi lo sviluppiamo per le biciclette, quindi i nostri prodotti hanno l'obiettivo di aumentare la sicurezza appunto del ciclista. Blue Break nasce a ottobre 2015, quindi ad oggi abbiamo un anno e mezzo, abbiamo ricevuto un round di finanziamento da investitori privati appunto ottobre 2015, a dicembre 2016 abbiamo presentato il primo prodotto al mercato e oggi che siamo a luglio stiamo industrializzando il prodotto e saremo sul mercato a dicembre 2017. Allora Todeschini, lei quanti anni ha? Io 31. Ed è l'unico fondatore? No, siamo un team di fondatori. E dove lavoravate prima? Cioè da dove arrivate? Ma io arrivo dall'università, perché diciamo che questo progetto arriva dai miei percorsi accademici. Ho fatto il dottorato su questi temi, però per le moto, e poi abbiamo deciso insieme al mio professore, insieme ad un altro team di persone, di provare a investire tutto il know-how che avevamo sviluppato e portarlo nel mondo delle bici. Quanto contate di fatturare e chi vi ha aiutato? Allora, quanto contiamo di fatturare? Per una startup è difficile dirlo, quello che vogliamo fare noi è nell'arco di 5 anni vendere circa 70.000 pezzi, 70.000 pezzi che diciamo, dovrebbero occuparci circa 40 milioni di fatturato, tra 5 anni ovviamente. Allora, in bocca al lupo a lei e ai 10, si immagino tutti della stessa età, al di là del professore forse, no? No, in realtà io sono più giovane. A lei è più giovane? Sì. Abbiamo beccato più giovane. Bene, in bocca al lupo a lei e a tutti... E a tutti gli altri 10 tra ingegneri e designer, sono 5 dipendenti, appunto 5 collaboratori per la Blue Break. Mi scuso se oggi ho dovuto restringere il caso virtuoso, ma dopo il GR24 vorrei andare con l'uccellaccio Giulio Sapelli, volare tra Tallinn e Amburgo e nel nuovo ordine, un nuovo disordine mondiale, con un approfondimento proprio sull'Italia che... il cui grido di dolore, si diceva una volta, proprio dalla Francia e dalla Germania non viene ascoltato. Comunque, dopo GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. in diretta per la seconda parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Dicevamo e annunciavamo anche prima della poco invidiabile classifica questa parte del programma è dedicata agli scenari di, che potremmo chiamare di politica estera, anche se in parte sono di politica interna, visto che l'Unione Europea è ancora e viene vista ancora come una casa unica, e i temi delle migrazioni, di quello che è accaduto o non è accaduto a Tallinn e al G20 riguardano anche la politica interna italiana. Però insomma partiamo dalle notizie su cui vi hanno aggiornato anche i nostri GR24. Oltre agli scontri ad Amburgo, centinaia di agenti feriti e anche manifestanti, e il fatto così scontri così intensi che hanno fatto cambiare il programma anche delle consorti dei capi di Stato ad Amburgo, addirittura la moglie di Trump, Melania, non è riuscita a uscire dall'albergo, bloccata dai manifestanti, ma questo, diciamo, se vogliamo, è più materia di ordine pubblico. Interessante notare che la cancelliera Angela Merkel ha ribadito come la crescita e il commercio, il libero commercio, siano delle priorità, la crescita economica e il libero commercio le priorità del G20. Sappiamo, ha detto la Merkel, che il tempo stringe, le soluzioni sono possibili solo se tutti sono disposti a compromessi. Trump ha definito ottimo l'incontro con Angela Merkel. Dopo la Polonia ha avuto un ottimo incontro con la cancelliera Merkel e poi con il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente coreano Moon. C'è poi stata la prima stretta di mano tra Trump e Putin all'inizio del G20 di Amburgo. Poi vi sarà l'attesissimo bilaterale questa sera tra i due, tra Trump e Putin. Putin ha dichiarato che la Russia è contraria al protezionismo che cresce nel mondo, il commercio illegittimo e le limitazioni finanziarie di evidente origine politica sono infatti mirate a eliminare concorrenti, comportano la riduzione dei legami commerciali, provocano la perdita di fiducia tra gli attori della cooperazione economica. Quindi no al protezionismo e anche le sanzioni, mentre segnalo che il presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker ha detto, ha minacciato tra virgolette Trump, l'Unione Europea potrebbe reagire con sanzioni, con delle contromisure, se gli Stati Uniti, diciamo, andassero avanti nell'idea di dazi sull'acciaio. E questo è il fronte, diciamo, di quello che una volta si chiamava ordine mondiale o disordine mondiale. Poi c'è, dicevo, il tema tutto italiano. Ieri, al di là di quanto già si sapeva, li ho chiamati poche briciole, senza mancare di rispetto, ma insomma i soldi che abbiamo ricevuto sono poca cosa. Porte chiuse invece all'Italia sull'ipotesi di ridividere le quote degli sbarchi, di aprire altri porti, diciamo, del Mediterraneo, ma non solo. Su questo devo dire che l'Italia ha detto: noi continueremo, quando vi sarà poi l'incontro per il Frontex, per rivedere quello che è in questo momento il dispiegamento Triton, però in maniera molto chiara, molto asciutta, nonostante lo sforzo di Minniti, per ora l'Italia ha avuto un no su tutto, tranne che al codice da stilare di condotta per le ONG, e poi appunto questi 35 milioni di euro a Roma, che si aggiungono ai 91 milioni già stanziati, alla Libia i 46 milioni per migliorare le capacità operative della Guardia Costiera, e poi 200 milioni per il fondo, che però dovrebbe avvenne in dotazione 2 miliardi e 600 milioni per il fondo per l'Africa. Faccio notare due cose: la spesa dell'Italia per l'emergenza migranti è stimata quest'anno tra i 4 miliardi e 300 milioni e i 4 miliardi e 700 milioni di euro. I 2/3 per l'accoglienza, un 20% per il soccorso in mare, il 13% per sanità e istruzione. E ogni volta che non mollo il colpo, faccio notare che la Turchia, per bloccare i flussi di migranti siriani che preoccupavano molto i Balcani, l'Austria, l'ex impero asburgico e la Germania, ha ottenuto 3 miliardi più altri 3 miliardi di euro. Mi sembra giunto il momento di chiamare, evocare un uccellaccio che immagino si muova tra ciò che resta della Lega anseatica di Tallinn e Amburgo, quindi diciamo un uccellaccio anseatico, se posso dire. A Allora, saluto e ringrazio l'uccellaccio Giulio Sapelli, che insegna economia, storia dell'economia alla Statale di Milano. Ha appena scritto un libro, tra l'altro, che si chiama Un nuovo mondo, la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali, casa editrice Guerini. Il libro si apre con una citazione di Aristotele: sempre la Libia porta qualcosa di male, qualcosa di nuovo. È più attuale non poteva essere. Buonasera, professore. Buonasera, uccellaccio anseatico, non me l'aveva ancora detto nessuno, ci mediterò. Ecco, comunque apprezzi anche la mia cultura, visto che insomma la Lega Anseatica. Soprattutto che apprezzo, che lei apprezza che io cito Aristotele, che allora, la Libia. Prima di arrivare alla Libia, diamo però un commento su quanto sta avvenendo, perché poi il vertice va avanti, questa sera c'è l'incontro Putin-Trump. Allora, da ignorante quali sono, mi sembra che sì, la confusione sia molta sotto il cielo, però rispetto a dove eravamo partiti a gennaio, un Trump pieno di barriere, protezionismo, mi sembra che ci sia un tentativo di dialogo. Adesso non voglio essere ottimista a tutti i costi, ma un tentativo di dialogo mi sembra che ci sia. Non v'è dubbio, infatti, sempre per fare dei riferimenti storici, è un po' quello che accade all'inizio del congresso di Vienna. Ha battuto Napoleone e la prima mossa fu quella di farla pagare al mostro che aveva insanguinato l'Europa. Qui succede un po' la stessa cosa. Prima tutti contro Trump, solo Juncker rimane fisso in questa sua incapacità logico-mentale che lo caratterizza, ma tutti gli altri si sono rimessi in moto. Cosa sta succedendo? Stanno disvelando quelli che sono i loro obiettivi. Tutti li stanno disvelando. Trump ha fatto capire benissimo qual è il suo. Con intelligenza è andato prima a Varsavia, prima di andare ad Amburgo, cioè ha fatto capire che lui è pronto a dare del filo da torcere alla Merkel e all'Europa. A Varsavia naturalmente ha evocato Pilsudski, non a caso, un uomo degli anni 30 che aveva proposto una lega polacco-baltica contro la Russia e contro la Germania, e lui è andato lì e ha fatto ha fatto omaggio al governo con dei, diciamo così, che ha come ispiratore Kaczynski, quelli che si sono arrabbiati moltissimo quando l'Unione Europea ha nominato presidente del Consiglio Tusk, che loro polacchi non volevano. Quindi una mossa diplomatica molto intelligente alla Kissinger. E che vuol dire che il desk office che c'è attorno a Trump si sta articolando, il Pentagono dice la sua, Tilson anche, e anche quel po' di diplomazia kissingeriana che finalmente ritorna dopo gli anni bui della politica internazionale, con questa idea assurda dei diritti umani, del diritto di intervento umanitario, che voleva dire poi bombardare l'Iraq e scatenare le primavere arabe e scatenare poi i fratelli musulmani. Finalmente sta cambiando e gli Stati Uniti ritornano ad avere una politica realistica di grande potenza. Questo consente agli altri di emergere, consente alla Germania di fare le sue proteste proposte, consente a Putin di dire io sono contro il protezionismo. Perché? Perché vuole una politica di espansione. Perché i cinesi sono protezionisti, sono antiprotezionisti? Ma perché sono neoimperialisti e vogliono mettere le loro pedine sullo scacchiere mondiale partendo dal commercio. Ma è elementare, Watson. Ecco, Trump voleva il protezionismo selettivo perché non voleva più la deindustrializzazione dell'America e vedersi, come si potrebbe dire, rubati degli spazi di commercio da potenze sempre più imponenti e indisponenti come la Germania. Ecco, ricordo il caso Dieselgate. Certo. Allora, mi faccia dire solo una cosa. Decisivo, ed è uno schiaffone che hanno dato a Trump, è l'accordo commerciale UE-Giappone, di cui abbiamo parlato a lungo ieri. Il più grande gruppo di case automobilistiche contro quelle americane. È molto importante. Ma infatti cercavamo di spiegarlo ieri anche a chi criticava pure l'accordo tra Bruxelles e Tokyo, che ha invece molti vantaggi a partire da quelli per l'Italia sulle esportazioni anche di agroalimentare, ma non solo. Dopo il traffico invece vorrei venire all'Italia. Importante quello che lei ricordava, Sapelli, dice insomma, qui sembra che la Casa Bianca, dopo un po' anche di indecisione e anche un po' di pressapochismo iniziale, si stia orientando a quella che una volta si chiamava Realpolitik. Lo dico già a chi mi scrive, che sicuramente non è il migliore del mondo possibile per chi vuole che la politica estera si faccia solo sui valori, sugli ideali. Però attenzione, questo non vuol dire buttare a mare gli ideali e i valori, ma l'idea di esportare la democrazia, e quindi poi ci colleghiamo al prossimo tema, è esattamente il motivo per cui con vari passaggi stiamo gestendo una crisi umanitaria nel Mediterraneo. Cioè l'idea delle primavere arabe senza sapere cosa sarebbe conseguito, l'idea di buttare giù Gheddafi senza sapere cosa sarebbe conseguito, l'idea di andare in Iraq prima e comunque con la Siria avere un atteggiamento Assad fatto fuori senza sapere che cosa ne sarebbe conseguito, l'idea di esportare la democrazia è quella che ha incasinato oggettivamente tutta l'area mediterranea e medio orientale. Poi uno può dire è giusto bombardare, è giusto appoggiare i movimenti senza ne sapere che cosa capiterà dopo, è un'idea legittima, ma la realpolitik vuol dire aspetta, cerco di ottenere quantomeno il minore dei mali possibili, non il migliore dei mondi possibili, il minore dei mali possibili. Traffico, e andiamo invece all'Italia e alle porte in faccia che ha ricevuto. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Sapelli, la realpolitik che lei evocava nell'elogiare, tra virgolette, insomma, quello che è il nuovo atteggiamento americano più realistico, il minore dei mali possibili, non necessariamente il migliore dei mondi possibili, mi sembra che però non si applichi quando tocca a noi in Europa. Cioè qui abbiamo 100.000 sbarchi, abbiamo avuto una crescita abnorme degli sbarchi, e non solo perché l'Africa si sia impoverita, l'Africa non si è impoverita, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, si sono aperti canali, la povertà africana è da sempre un problema, anzi negli ultimi anni abbiamo visto anche qualche segnale di risveglio, però l'85% degli arrivi da inizio anno su 100.000 arrivi sono tutti in Italia e 9.000 in Grecia, 6.000 in Spagna, 85.000 in Italia. Ora, io ho elogiato Minniti perché mi sembra che abbia anche, insomma, un grosso senso del ruolo, però non dico fosse schiaffo eccessivo, ma abbiamo ottenuto pochissimo. Ma vede, abbiamo ottenuto pochissimo, ma mi scusi, bisogna collegarsi, come lei giustamente ha fatto, quest'idea della politica realistica, allora bisogna anche vedere questa questione dei migranti. Dobbiamo finire di guardarla solo con gli occhialini umanitari, importantissimo, bisogna guardarli con gli occhialini della lotta di potenza nel Mediterraneo. La questione dei migranti inizia da quando la Francia e l'Inghilterra, sciaguratamente appoggiati dagli Stati Uniti, hanno fatto fuori Gheddafi, scatenando, sapendo benissimo che così scatenavano l'ondata migratoria, che guarda caso è un'ondata migratoria che ha degli alti e bassi. Ma scusi, ma lei crede che sia casuale che prima di Tallinn c'è un'ondata di 40.000? Questi qua sono ondate migratorie dirette a allontanare l'Italia dal Nord Africa, dalla Libia e dall'Egitto, si collegano con il caso Regeni. È una politica che comincia, come dico sempre io ai miei studenti, dal 1882, governo Cairoli de Plessis, quando i francesi ci cacciano dal Marocco. La lotta per dominare il Nord Africa e di lì arrivare al Congo comincia da ben prima che si scoprisse il petrolio. Figuri adesso, quando noi siamo stati leader nella produzione energetica in Nord Africa e in Egitto. Quindi dietro la questione dei migranti c'è che vogliono eliminare l'Italia dal Mediterraneo. Come si fa? Scaricandogli addosso i migranti. Ma è evidente. Lei ha fatto molto bene finalmente a citare le cifre. Quelle cifre sono drammatiche e vuol dire che ci sono due pesi e due misure. La Turchia non ha mai nessuna... L'impero ottomano è finito. Capito? Quindi ormai loro si fanno, dato loro hanno altri interessi a fare un asse con l'Iran e lavorare con la Russia. Il problema è quello lì. Minniti, voglio dire, è stato sconfitto sui migranti perché noi, tra virgolette, nella politica di realpolitik e di distruzione del potenziale economico italiano in Nord Africa, che la Francia persegue con la Germania dietro, non può che finire così. I migranti non sono solo una cosa umanitaria, la questione che hanno fame, arrivano, è anche una questione dello scontro di potenza su chi deve dominare in Francia. Noi non ne parliamo di questo, in Africa, le chiedo scusa, lapsus non casuale. Hanno i loro missi dominici, no? Che mandano, no? Abbiamo dei politici italiani esiliati in Francia, pronti per essere mandati in Italia. Cioè, quindi insomma. Sì, però sapete, c'è chi dice anche che molto più banalmente i flussi di migranti arrivano più d'estate perché le condizioni meteorologiche sono migliori. Piacere, ma mi dica, ma scusi, ma c'è Frontex, ma ci sono i militari, ma scusi, pensi che lei è troppo intelligente per pensare che tu parti dalla Libia quando vuoi? Parti quando ti fanno partire, per quelle cose terribili che lei evocava prima, ci sono i campi di concentramento. Io faccio delle domande chiare: cosa fa l'ONU? Cosa fa l'ONU con i suoi berretti blu? Cosa fanno questi? Dove stanno? Perché non vanno a farci dei giri nel deserto, nel Mali e nell'Africa subsahariana e smontare questi campi di concentramento? Prima domanda. Seconda domanda. Perché non si riesce, appunto, come lei ha detto molto bene, davanti all'ottimo Minniti, viene, voglio dire, fa quello che può, è un uomo che, come ha detto, era ben definito, ha la consapevolezza del suo ruolo, evviva, finalmente. Però il problema vero è che ci vogliono far fuori in Nord Africa attraverso anche i migranti. E noi, che non abbiamo una politica di accoglienza, perché questo è il problema, gli diamo la possibilità di avere delle giustificazioni veramente brutte, come questa cosa quasi ridicole, dei carri armati al Brennero, dei bambini che vengono presi su un treno e riportati indietro. Figurati se una cosa di questo tipo capitava in Italia, avremmo avuto, giustamente, perché siamo un popolo buono e generoso, soprattutto le popolazioni del sud. Però questa cosa, dietro c'è una guerra di potenza, c'è una lotta che ci vogliono cacciare via da quello che abbiamo costruito in 50 anni grazie a Mattei e grazie a grandi imprenditori. È vero, questo è il problema. Ma vero, ok, allora Sapelli, anche immaginando, perché lei questo ha come scopo, che non sia solo un problema umanitario ma sia ci sia un piano dietro che viene perseguito. Non è un piano, è dalla fine dell'Ottocento. Un obiettivo, io mi riferisco più recentemente a Sarkozy e ai suoi mirage contro Gheddafi. Come ne esce l'Italia? Perché voglio dire, io vedo anche un altro enorme problema di tenuta dell'opinione pubblica e dell'ordine pubblico, perché noi non possiamo. In primo luogo, più che illudersi di cambiare la politica europea, cambiando la politica dell'accoglienza. Basta di lasciare questi immigrati in giro col telefonino che vanno e vengono e giocano a football. Vanno messi dentro a delle belle case di lavoro dove gli si insegna un mestiere, come si fa in Germania, come si faceva in Argentina, come si faceva negli Stati Uniti. Imparano la lingua, questa diffusione sul territorio. Ma di cosa? Ma cosa si diffonde nel territorio? La follia, la paura? Si creano delle case per gli immigrati, gli si insegna un mestiere, come si fa in Australia. Sì, mi risponda in 30 secondi sul fronte della politica estera invece. Sul fronte della politica estera si comincia a fare una protesta diplomatica chiamando gli ambasciatori a convegno italiani dal ministro degli esteri e li si invia in tutti questi paesi e gli si invita o a rispettare i trattati che non rispettano o a cambiare quelli che vogliamo modificare. E poi si dovrebbe dedurre da questo che bisogna cambiare la politica verso l'Unione Europea, perché non possiamo essere trattati così e poi firmare il fiscal pact e tutte queste cose, come degli zerbini. Allora, se si manda un ministro come Minniti, che ha un senso dell'onore e sa cosa vuol dire la patria, beh, la patria va difesa anche davanti a delle politiche economiche che ci danneggiano e che sono fatte apposta per scardinare il nostro sistema manifatturiero. Cioè lei dice, andiamo a questo punto muso duro a Bruxelles, sia di carattere diplomatico che del resto degli accordi con l'Europa. Sì, io onestamente ho sempre un approccio più in questi casi diplomatico, ma non vedo, visto come è andata Tallinn e come sta andando il G20, era Tallinn il vero obiettivo, non vedo molte altre soluzioni. Vedo però un governo che per fare questo, Sapelli, deve avere una forte anche legittimazione popolare, cioè un elettorale, diciamocela tutta. Il governo Gentiloni è già tanto che c'è Minniti, c'è Calenda, ecco, e Padoan, ma ti manca questo dietro, perché se tu avessi dietro uno forte mandato popolare di carattere elettivo, forse avresti anche più forza in Europa, sì o no? Scusi, quello che gli dice è verissimo. Io, come lei sa, sempre detto di codiamo al voto, ho pensato che la politica di Napolitano è stata distruttiva, questa cosa qui, che ha fatto di tutto per non farci votare, perché aveva in mente un altro tipo di rapporto in Europa subalterno, era stato anche messo lì apposta per questo forse. Però il problema vero è che adesso cominciamo a fare le proposte diplomatiche, che possiamo farle benissimo, e cominciamo a avere un atteggiamento di più fermezza nella negoziazione che si sta aprendo sui trattati, fiscal compact eccetera. Quando andremo al voto, andiamo al voto, io spero che questi problemi di cui lei ha trattato così bene in questi giorni siano oggetto della campagna elettorale. E vorrei anche che fosse oggetto dei dibattito all'interno dei partiti. Mi pare che di queste cose non discuta nessuno, salvo un po' la destra, perché naturalmente è all'opposizione. Vada, voli anche via Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano. È veramente tutto per questa puntata e settimana di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando, e un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.